Letture di Radio 24. Si dice che lavorare fianco a fianco in un open space aumenti il livello di collaborazione, ma una recente ricerca dimostra il contrario. Pare che gli open space ci rendano soltanto più asociali. La ricerca rivela che negli spazi lavorativi condivisi sono stati riscontrati maggiori problemi relazionali tra gli impiegati: distrazioni, mancanza di collaborazione, sfiducia e relazioni negative. Più sorprendentemente, c'è stato un peggioramento sia nelle amicizie tra colleghi, sia nel modo in cui veniva percepito il supporto da parte della direzione. Anche se le precedenti ricerche avevano dimostrato che gli spazi condivisi possono migliorare la socializzazione, la comunicazione e la collaborazione, i risultati della nostra ricerca indicano che le amicizie tra i colleghi sono a livello più basso nelle postazioni mobili e negli open space, se confrontate con quelle di chi ha un proprio ufficio o lo divide con uno o due colleghi. Il risultato peggiora significativamente se rapportato con quelli che lavorano prevalentemente a casa o in viaggio. È possibile che questi uffici condivisi aumentino la tendenza da parte degli impiegati ad utilizzare strategie difensive, come quella di mettersi in disparte, contribuendo così a creare un ambiente meno amichevole. La nostra ricerca dimostra che gli ambienti condivisi non migliorano le amicizie tra colleghi e in più sono associati alla percezione di un minore supporto da parte della dirigenza. Questo può dipendere dal fatto che gli impiegati che sono troppo controllati o che al contrario ricevono solo un coordinamento informale considerano la qualità della direzione più bassa rispetto a quelli a cui vengono dedicati specifici incontri organizzativi. Può darsi anche che, essendo gli impiegati più nervosi, sospettosi l'uno dell'altro e schivi nel loro ambiente di lavoro, la loro relazione con superiori e colleghi finisca per deteriorarsi. Dato che la scelta degli open space è legata al costo degli uffici, è abbastanza improbabile che il trend possa subire inversioni di rotta. Come possono sopravvivere dunque gli impiegati? Un modo per limitare le distrazioni visive da parte dei colleghi vicini potrebbe essere quello di usare pannelli, librerie o muri di piante. I ricercatori Pitt e Bennett pensano ad un grande ufficio ridisegnato per includere non solo le postazioni mobili, ma anche le cosiddette aree di atterraggio, scrivanie libere dove si può avere facile accesso alle informazioni, uffici prenotabili, spazi collaborativi per gruppi di lavoro e infine spazi di fuga, con divani e scrivanie che permettano una collaborazione lavorativa informale. Non stiamo suggerendo che ai lavoratori debbano essere garantite privacy illimitata e solitudine. Alcune interazioni spontanee sono indispensabili per la buona qualità del lavoro. Ma quando diventano troppo, le distrazioni finiscono per superare i benefici che derivano dalla potenziale collaborazione. Se sono troppo poche, invece, i benefici non risultano evidenti. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Rachel Morrison «Scontro tra colleghi, come gli open space ci rendono più asociali», dal Guardian del 13 settembre. Letture di Radio 24. Chi ha avuto l'occasione di vedere i capolavori del regista Yasujiro Ozu, come Viaggio a Tokyo o Tarda Primavera, difficilmente sarà rimasto indifferente di fronte alla profonda espressività di Hara Setsuko, una delle più grandi attrici giapponesi di tutti i tempi, capace con un solo sguardo o con un semplice movimento della testa di trasmettere allo spettatore tutte le emozioni che il personaggio stava provando in quel momento. Ma come emerge dalle testimonianze degli attori che hanno lavorato con il regista giapponese, non era soltanto la loro capacità recitativa o la loro mimica a rendere così forti le emozioni trasmesse da questi film. Dietro c'era anche un enorme lavoro del regista, quasi maniacale nella precisione con la quale curava ogni minimo dettaglio. Una precisione che emerge anche dai suoi scritti, come questo breve testo del 1947, nel quale Ozu chiarisce le sue idee su caratteri ed espressioni del volto. Non basta essere bravi con le espressioni del volto. Non è sufficiente saper fare abilmente una faccia triste o allegra, saper muovere come si vuole i muscoli facciali. È troppo facile. Oggigiorno, per quanto riguarda le espressioni del volto, agli attori giapponesi non manca proprio niente. Si dice spesso che i giapponesi siano poco espressivi, ma almeno per quanto riguarda gli attori, non credo siano meno espressivi di quelli americani. Però non si può dire che siano dei buoni attori solo perché sono bravi a fare le espressioni con il volto. Secondo me, non è questo il punto. Ciò che conta è il carattere. Cogliere il carattere del personaggio. Bisogna esprimere i sentimenti dopo aver colto il carattere. Se non si coglie il carattere del personaggio e si cerca solo di rappresentare i sentimenti, vengono fuori degli attori bravi solo a muovere i muscoli della faccia. Se è per piangere quando si è tristi o ridere quando ci si diverte, chiunque, anche se non è un attore, può farlo. Per esprimere i sentimenti, le espressioni del volto servono solo per il 30 o 40%. Il regista non deve tirar fuori i sentimenti agli attori. Piuttosto deve contenerli. Che cosa intendo con carattere? Direi la personalità. La personalità deve assolutamente venire fuori. Questo è ineludibile per qualunque tipo di arte. Non basta che il volto esprima le emozioni. Ci deve essere personalità. Anche se si riesce a controllare le espressioni del volto al 100%, questo non esprime il carattere. Detto in maniera drastica, è piuttosto l'abilità delle espressioni del volto che finisce per disturbare le espressioni del carattere. È una questione di saper trattenere. Bisogna esprimere il carattere trattenendo. Harry Fonda in Sfida invernale si lascia mettere il profumo dal barbiere, poi sta lì in piedi senza fare nulla. È proprio quella la grandezza di John Ford. Fonda appoggia i piedi sul palo e si dondola inclinando la sedia all'indietro tutto divertito. Invidio realmente l'intesa tra John Ford ed Harry Fonda. Chissà se arriverà in Giappone qualche film di William Wyler. Vorrei vederne qualcuno, tipo la signora Miniver. A proposito di Wyler, nei suoi film Bette Davis migliora al punto da sembrare un'altra persona. In Piccole Volpi, Bette Davis sta in piedi vicino al marito morente, interpretato da Herbert Marshall, e prepara una tazza di tè o di caffè. Il suo volto non esprime nulla. Prepara il tè con aria indifferente, come se niente fosse. Si sentono solo i rumori della teiera e delle tazze. Avete ascoltato la lettura di alcune pagine del libro di Yasujiro Ozu, Scritti sul cinema, Donzelli, 246 pagine, 26 euro. La nostalgia modaiola per i vecchi formati audio e video sembra non avere fine. Abbiamo accettato, obtorto collo, di vedere i pochi negozi di dischi rimasti in vita riempirsi di nuovo dei padelloni in vinile che molti speravano di aver archiviato definitivamente. Qualcuno dice i vinili suonano meglio dei CD, altri si allargano fino a celebrare il fascino retro dei fruscii e i rumori di fondo. L'operazione nostalgia non si è però fermata qui e dopo aver tentato di riportare in vita le cassette audio, senza successo, grazie al cielo, sto ora provando a riesumare le vecchie VHS. Ma se sul vinile si può accettare che con un impianto hi-fi molto costoso e facendo finta di non sentire i fruscii, la qualità del suono possa considerarsi più che accettabile, pensare che il futuro del video possa passare per le videocassette rasenta la follia, come racconta Dave Alexander, direttore della rivista Rumorg, nell'editoriale che apre il numero di settembre. A luglio, in un notiziario della CNN, è stato annunciato che la Funai, l'ultima azienda al mondo che ancora fabbricava videoregistratori, avrebbe sospeso la produzione a partire da quel mese. Il mio primo pensiero è stato: santo cielo, fanno ancora i videoregistratori? Ero convinto che i giganti analogici fossero ormai estinti. Ma a quanto pare le VHS sono tutt'altro che scomparse, soprattutto nel genere horror. Tale è la nostalgia per un'epoca che aveva così profondamente cambiato il modo di vedere i film per un'intera generazione, che nel 2016 esistono siti e riviste dedicate all'horror in VHS e stanno perfino uscendo nuove videocassette. Mi sono comperato le nuove edizioni in VHS di The Nail Gun Massacre o di The House of the Devil, assieme a libri che parlano delle copertine delle videocassette, una penna USB a forma di videocassetta e un'edizione VHS di The Blob con una speciale copertina tridimensionale. Conservo dei cari ricordi della mia adolescenza passata nelle videoteche negli anni 80 e 90 e rimpiango gli anni delle grandi scoperte, quando bisognava cercare in lungo e in largo per trovare quel titolo particolarmente raro. Recentemente mi sono rimesso a guardare delle videocassette solo per ragioni nostalgiche. L'ultima volta è stato in dicembre, quando un mio amico mi ha portato una VHS della Profezia, film di John Frankenheimer sulle mutazioni genetiche prodotte dall'inquinamento. Il peso tangibile della videocassetta, il ronzio del videoregistratore e quelle familiari righe bianche, tutto questo non ha fatto altro che confermarmi una grande verità. Le videocassette fanno cagare. Davvero, l'audio era scarso, le immagini scure e sfocate e naturalmente le immagini tagliate ai bordi per adattare il formato panoramico ai 4/3 del televisore, una pratica talmente aberrante che ho il sospetto si tratti di una specie di tecnologia nazista. A meno che non siate convinti che il miglior modo di vedere un film sia attraverso l'oblò di un sommergibile, non esistono ragioni estetiche per preferire l'analogico agli altri formati. Ma non tutti sono d'accordo. Negli ultimi anni ho notato che molti social media si sono prodigati in elogi sulla meravigliosa esperienza di guardare i film horror in videocassetta. C'è gente che posta su Instagram o Facebook degli screenshot dei film visti con i loro polverosi videoregistratori per condividere l'esperienza del calore della videocassetta. Beh, queste sono vere e proprie stronzate. Dal punto di vista del formato non c'è paragone tra cassetta e digitale. Le cassette hanno una bassa definizione, si sporcano e si deteriorano facilmente, si rompono. E poi è una noia mandare il nastro avanti e indietro, senza parlare poi del formato errato dello schermo. Ma secondo alcuni social sarebbe questa la vera esperienza. Mi ricordo che un tizio ha raccontato di aver visto From Beyond di Stuart Gordon in videocassetta su un televisore a tubo catodico e ha scritto che preferiva la videocassetta al Blu-ray con la versione restaurata. Visti i commenti di quelli che apprezzavano la sua scelta, immagino che tutto questo venga fatto solo per ottenere un po' di attenzione, piuttosto che per il piacere di guardare un film. È un modo per catturare una specie di autenticità, evocando un tempo andato per il quale oggi molti provano nostalgia. E leggendo i commenti, mi sono reso conto che la maggior parte di quelli che dicono di apprezzare le VHS sono troppo giovani per aver conosciuto i tempi in cui si noleggiavano i film. Per me non è così. Io ricordo la fatica di lavorare nelle miniere analogiche, in quelle videoteche dagli spazi ristretti, passando il tempo a riavvolgere i nastri, a riparare manualmente quelli che si rompevano, a cercare di ripulirli facendoli passare nel videoregistratore al quale avevo appena cambiato le testine. In realtà era divertente fare quel lavoro. Ma la cosa peggiore era avere a che fare con i clienti che si lamentavano perché l'immagine era tagliata ai lati o che erano infastiditi dalle strisce nere del widescreen. Quando sono arrivati i DVD, finalmente abbiamo potuto vedere i film nel formato corretto e con una qualità migliore. E con il Blu-ray, ancora meglio, finalmente l'alta definizione. E non venitemi a dire che fa figo guardare i film in un formato che è così immensamente inferiore. Avete ascoltato la lettura dell'editoriale di Dave Alexander, Note dal sottosuolo, dal numero di settembre del mensile Rumorg. In un episodio della 18ª stagione del cartone animato South Park, Eric Cartman utilizza un drone per guardare cosa stanno facendo i vicini di casa. Quando vede che la mamma del suo compagno di classe Craig si sta spogliando, filma la scena e poi la posta sui social. Il video diventa virale, anche perché la mamma di Craig pare sia una delle poche donne che non ha seguito la moda di depilarsi il pube. Lo scandalo che ne deriva porta alla decisione di creare una task force di quartiere che permetta di sorvegliare, sempre attraverso i droni, la privacy dei cittadini di South Park, con risultati prevedibilmente disastrosi. Stabilire delle regole sull'utilizzo dei droni sta diventando però sempre più urgente, anche nel mondo reale, come racconta Franco Venturini in un articolo pubblicato su Io Donna. Ne esistono di tutti i tipi, da quelli per bambini fino a quei mostri armati di missili che uccidono con assoluta precisione. A noi interessa un tipo più vicino alla prima che alla seconda categoria. Quei droni appena più elaborati dei giocattoli, ma capaci di ospitare una macchina fotografica oppure una piccola cinepresa, capaci insomma di rubare immagini superando dall'altro barriere fisiche e diritti alla privacy. I fotografi di gossip ne fanno da tempo uso, con un certo successo. Ma di recente i droni spia guidati da terra hanno scoperto e superato una nuova frontiera, quella della caccia alle infedeltà di coppie. Si va da modelli base di costo moderato ad altri in uso alle grandi agenzie specializzate che costano circa 40.000 euro, volano alti e senza abbassarsi memorizzano le immagini delle scappatelle hot. Moltissime infedeltà sono state scoperte così, anche se per i fai da te accecati dal sospetto e poco al corrente delle leggi, le norme esistenti vieteranno quasi sempre l'utilizzo della prova in tribunale. In Polonia, per citare un esempio tra tanti, Italia compresa, il fenomeno ha raggiunto tali proporzioni da indurre le autorità a correre ai ripari. I piccoli droni non potranno più volare a meno di 30 metri da persone a terra. Dovranno avere una targa per identificare il proprietario e gli operatori dovranno ottenere una specifica licenza. Tutto a beneficio della privacy d'amore? Forse, ma non fidatevi. La difesa più efficace continua ad essere un ombrello aperto, anche con il sole. E pazienza se vi prendono per matti. E quello che avete ascoltato era l'articolo di Franco Venturini, Apri l'ombrello, ti difende dal drone spia. Da Io Donna del 24 settembre.